domani là, io vado e vivo così, senza freni vado e vivo così, yeah. Casa qui, oh io non ho, ma 100 case ho. Oggi qui, domani dove sarò? Che tu, ecco che mi hai preso tutta per te, e fra un po' io non respirerò più, oh no. Qui è là, io amo la libertà, e nessuno me la toglierà mai. Oggi qui, domani là, mi piace andare così, senza freni vado e vivo così, yeah.